Radio 24 presenta Il riposo del guerriero con Stefano Gallarini. Sole 10 e 8 minuti, buona domenica da Stefano Gallarini, comincia il riposo del guerriero e prima di raccontarvi di cosa parleremo oggi vediamo di dare i numeri come sempre, così ci liberiamo di una cosa fondamentale che è il modo per comunicare con il riposo del guerriero, la pagina di Facebook, quindi la trovate su Facebook ovviamente, il riposo del guerriero se volete inserire i vostri commenti, il numero per i messaggi 349-238-6666 e il numero verde, ve lo ricordo come sempre perché alle 11.30 anche oggi giocheremo con il mistero in 24 minuti, la possibilità di portarvi a casa fino a 1000 euro da spendere sul sito libreriarizzoli.it e per riuscire a portarvi a casa il premio dovrete risolvere il mistero, può trattarsi di una notizia della settimana oppure di qualcosa, un personaggio appunto, qualcosa di particolarmente famoso e conosciuto, per arrivare alla soluzione avrete a disposizione degli indizi musicali che vi farò ascoltare. Vi faccio sentire il primo indizio di questa settimana. Se tutte le ragazze del mondo si dessero la mano, si dessero la mano, allora ci sarebbe il giro tondo intorno al mondo, intorno al mondo. Questo è il primo indizio, vi ricordo il numero verde, appunto potete prenotarvi fin da subito 800 24 00 24 per partecipare, lo ricordo, alle 11.30. E veniamo invece alla puntata di oggi. Io sono stato colpito dal titolo di Internazionale di due settimane fa che riportava in copertina una foto di Ground Zero e il titolo recitava così: dimenticare l'11 settembre, 10 anni dopo a Ground Zero. E David Reif, giornalista e columnist di Internazionale, scrive un lungo articolo intitolato appunto Dimenticare l'11 settembre, spiegandosi così: il decimo anniversario degli attentati sarà una grande occasione per celebrare le vittime e gli eroi dell'11 settembre. Ma è possibile ricordare senza alimentare l'odio? Cioè, si può aspirare alla pace senza tradire la memoria? La domanda provocatoria ovviamente è questa: quando si ricorda un evento tragico, per una serie di motivi si alimenta in qualche modo anche l'odio, il rancore. E allora ci si chiede, non è che magari dimenticando invece si riesce veramente a superare il problema? E l'articolo finisce così: nel frattempo faremmo bene a considerare la possibilità che, se le nostre società dovessero investire nel dimenticare anche solo una frazione dell'energia che spendiamo attualmente per ricordare, e se la scelta di dimenticare si potesse considerare almeno altrettanto percorribile del dovere di ricordare, allora la pace, che tanto un giorno dovrà venire, potrebbe arrivare un po' prima. E parole che mi hanno fatto ovviamente pensare, e allora ho intuito di poter parlare di memoria. Memoria e ricordi, come funzionano? Cosa dobbiamo ricordare? Cosa ci piace ricordare? Cosa è necessario invece dimenticare? Magari qualcosa che riguarda la nostra vita. Insomma, percorreremo quindi un po' di storia, sicuramente anche di storia della nostra lingua, cercheremo di parlare con uno psicologo che ci racconterà come funziona la memoria e come dobbiamo farla funzionare, e a volte invece se per qualche ragione dobbiamo proprio usarla al contrario, ovvero per dimenticare, e cercheremo anche di andare a rivisitare i fatti curiosi della nostra storia che noi per un motivo o per l'altro non vogliamo, non possiamo e non dobbiamo dimenticare. Intanto cominciamo così. beh, l'avete sicuramente riconosciuta tutti, immagino, bella voce è quella di Barbra Streisand, invece la canzone è Cats, tratta dal musical, la canzone Memories, scusatemi, tratta dal musical Cats. Non entro nel in merito al musical, che ho trovato e ho sempre trovato particolarmente noioso, ma questa è un'altra cosa. Quello che si aspetta quando si va a vedere questo musical è questa canzone, penso, almeno io la vedo così. 10:15, aggiornamenti sul traffico e poi cominciamo. Strade in diretta. Sulla 14 Adriatica si formano code per un tamponamento tra Ancona Nord e Senigallia verso Bologna. Sulla stessa carreggiata ci sono altri due incidenti. Si rimane in coda tra la diramazione per Avenna e Imola e proseguendo verso nord automobilisti in fila tra Bologna-San Lazzaro e il bivio per la 13 Bologna-Padova. Ci spostiamo sull'autosole, anche qui un incidente, code tra Modena Sud e il bivio per la 14 in direzione Bologna. Sono per il traffico intenso invece le code in uscita Valmontone in direzione Napoli. Il traffico intenso anche verso la Svizzera, code sulla 9 Lainate Como Chiasso per attraversare la dogana. È tutto, ci risentiamo più tardi. Il riposo del guerriero. Un passato che non si può perdere, il dovere di ricordare e anche di toccare e di guardare. Io voglio cominciare questa puntata con una curiosità che arriva da Stoccolma, arriva dalla Svezia e che Ilaria Tedde ci sta per raccontare. Ilaria, buongiorno, ciao. Ciao, buongiorno. Allora, Ilaria è italiana, come sentite, anche se da tempo vive a Stoccolma, e il suo mestiere è quello di fare la guida in un posto molto curioso. Io vorrei cominciare da Drottningholm, ovvero dalla residenza dei regnanti. Esatto, il Palazzo Reale di Drottningholm si trova su un'isola fuori Stoccolma ed è un posto effettivamente molto importante. Tra l'altro quest'anno sono 20 anni che siamo, che tutta la zona Drottningholm è un sito UNESCO, dunque patrimonio dell'umanità. E questo proprio grazie al teatro di corte di Drottningholm. Ecco, infatti tutti, scusami Ilaria, tutti vanno a visitare giustamente la reggia, il Palazzo Reale, esatto. Anche perché va assolutamente visitato, ma molti si dimenticano, diciamo così, di osservare di questo piccolo teatro. Che c'è questo teatro? Un teatro edificato nel 1766 e che ha una storia molto particolare. Cosa successe, Ilaria? Sì, il teatro fu fatto costruire dalla regina Lovisa Ulrica e dal suo consorte Adolfo Federico e dall'architetto, affidando il compito all'architetto di corte Adel Kranz, che con pochissimi mezzi, visto che la famiglia reale non aveva i fondi per la costruzione di un teatro, però con una grandissima sensibilità e gusto stilistico, realizzò un edificio veramente molto semplice, soprattutto se lo si osserva dall'esterno. Ha una struttura in legno, la facciata è assolutamente senza decorazioni, però ha degli interni che sono un vero e proprio capolavoro. Ecco, la cosa curiosa appunto è che anche all'epoca per costruire a volte mancavano completamente i mezzi, cioè non c'erano proprio i soldi per fare. Esatto. Però siccome il desiderio era quello di avere un teatro prestigioso, parliamo della residenza del re, di conseguenza il teatro doveva per forza di cosa essere prestigioso, e ci si è inventati di costruire questo teatro rendendolo particolarmente sfarzoso, ma in realtà con dei materiali che di sfarzoso non hanno sì, niente. Sì, esatto, Adelkranz si dovette veramente ingegnare con i materiali semplicissimi che si possono trovare in Svezia, dunque il legno, il colore, gesso, intonaco, calce. Nella sala ci sono pilastri appunto di gesso, i palchetti hanno dei supporti che non sono in realtà dei supporti ma delle decorazioni fatte in cartapesta addirittura. Quindi un teatro, pensate, fatto in parte in cartapesta, cioè in cartapesta, esatto, lo stucco fresco è fatto con il trompe l'oeil, le pareti sono dipinte come il marmo, però la pietra proprio non c'è all'interno dell'edificio. Però tutto l'occhio cosa fa? Poi dovete pensare la complicità anche dell'illuminazione, era quella delle candele ovviamente una volta, per cui grazie a questa complicità tutto sembra vero. Vi vogliamo raccontare, vi volevo raccontare insieme all'area di questo teatro, semplicemente perché per uno strano scherzo del destino, grazie al cielo voglio dire, questo teatro è l'unico al mondo a essere rimasto assolutamente com'era, e quindi è un teatro del 1766 visibile oggi esattamente com'era all'epoca, addirittura con tutte le macchine sceniche funzionanti. Esatto, corretto. Infatti il teatro che fu utilizzato praticamente in tutto il periodo che va dal 1766 fino al 1792, conobbe il periodo di massimo splendore proprio con il re Gustavo III, che regnò dal 1771, come detto, fino al 1692, quando poi fu assassinato all'Opera di Stoccolma durante un ballo in maschera. Il famoso ballo in maschera, certo. Dopo la sua morte, però, il teatro fu praticamente chiuso e dimenticato per un tempo lunghissimo, per circa 120 anni, giustamente come dicevi tu. Questa è stata la sua fortuna in un certo senso, perché si è effettivamente conservato intatto in ogni sua parte, appunto abbiamo l'unicità dell'edificio consiste proprio nel fatto che abbiamo ancora tutte le macchine del 1766 che vengono utilizzate esattamente come nel XVIII secolo. Come una volta, ecco, non vengono usati più i marinai che invece si utilizzavano una volta perché erano macchine molto pesanti da spingere, sono a corda da tirare. E quante quinte ci sono che si muovono contemporaneamente? Dunque abbiamo le quinte laterali e dietro ogni quinta c'è spazio per altre tre, che comunque i pannelli delle quinte possono essere cambiati nel corso dello spettacolo molto velocemente perché sono molto grandi. Si parla di qualche secondo, giusto? In qualche secondo la scenografia cambia completamente. Sì, il cambiamento di scena, che è un cambiamento di scena vista, dunque senza sipario, dura soltanto 3-4 secondi. Praticamente non si sente assolutamente niente in sala perché le quinte sono dotate di rotaie su cui poggiano, hanno delle ruote che sono in legno, per cui il movimento è assolutamente morbido. Ecco. Il cambiamento è molto veloce, bisogna immaginarsi il palcoscenico veramente come una scatola magica. È un palcoscenico molto profondo, con la prospettiva centrale, chiaramente un palcoscenico tipicamente barocco, le quinte laterali che sono scorrevoli, i soffitti in alto vengono cambiati insieme alle quinte. Dunque si passa molto velocemente da una scena all'altra, palazzo, ecco, foresta, tra l'altro ci sono anche delle botole, ce ne sono tante, per cui che servono a fare apparire in scena i mobili, per esempio far sparire addirittura gli attori. Senti Laria, sì. Questo teatro che insomma chi ama la macchina scenica in generale, il luogo, il teatro proprio come luogo, deve assolutamente visitare almeno una volta nella propria vita. Ci sono una trentina di rappresentazioni, se non mi sbaglio, all'anno di opere rigorosamente dell'epoca e che mettono in atto proprio le macchine sceniche originali, per quello ce ne sono poche, se no si rovinerebbero. E volevo capire, Laria, quanto le persone apprezzano questo teatro e se cominciano a conoscerlo, cioè cominciano a visitarlo, o comunque resta sempre un po', tra virgolette, nel dimenticatoio. No, assolutamente no, perché il teatro di Drottningholm, diciamo che e soprattutto il festival diventando sempre più noto anche all'estero, tanto che vengono persone anche dagli Stati Uniti d'America ad esempio per vedere l'opera a Drottningholm. La stagione potrebbe essere più lunga durante l'estate sicuramente, sì, però potremmo avere molto. Sì. Il fatto è che si rovinerebbe, perché è da tenere come una bomboniera. Per cui si limita veramente la stagione in questo modo, per cui abbiamo fino a un massimo proprio di 30 spettacoli, quest'anno ne abbiamo avuto soltanto una ventina in realtà, proprio perché si cerca di proteggere l'edificio il più possibile, ma diversamente la richiesta, la curiosità è veramente tantissima. Gli italiani come si comportano? Lo osservano benissimo, bene. Stavo riflettendo su questo e sul fatto che probabilmente proprio per il fatto che sono abituati alla bellezza dei monumenti, delle opere da cui vengono circondati quotidianamente praticamente, sì. Per cui restano assolutamente sorpresi, ma in modo molto positivo e sì, se posso dire così, veramente si resta senza fiato. No, ma è vero, assolutamente. È proprio quello che vi colpisce quando andrete a visitare il teatro, per chi ancora non l'avesse visto, e saranno in molti. Stoccolma in generale è una bellissima città, ma questo teatro deve essere una delle visite. Ilario, ti lascio perché tra 5 minuti tu dovrai cominciare il tuo primo gruppo che deve essere guidato in teatro, e ti ringrazio molto per essere grazie stata con noi. So che eri molto emozionata. Grazie Ilaria, ciao, grazie. Buona giornata. Ciao, buona giornata, ciao. Perché Ilaria, pur essendo una guida, era particolarmente tesa, cioè non ho mai parlato in una radio, cosa devo raccontare? Dico, tu racconta esattamente quello come fai quando porti le persone in giro. Chiaramente poi quando questo succede è molto più spigliata perché è nel suo posto. Marcello Simonetta, ciao, buona domenica. Ciao Stefano, come stai? Eccoci, bene, benissimo. Marcello Simonetta, fra le tante cose, è anche autore di un libro, L'Enigma Montefeltro, edito da Rizzoli. Io così ti ho voluto nel gruppo di questa domenica perché la nostra storia, io direi, non dico parte che è sbagliato, però insomma il Rinascimento un po' fa ripartire proprio l'Italia, no? In generale, non soltanto, quindi siccome siamo in quel periodo è giusto dire così. La nostra storia, dicevo, ha una vicenda particolarmente curiosa, che è quella chiamata La Congiura dei Pazzi. Di cui tu hai scritto questo enigma Montefeltro perché sei andato, sfogliando le lettere del tuo avo, sei andato a cercare la verità. Beh, sì, sai, la verità in termini storici è sempre un po' sfuggente, ma io mi sono trovato a fare un dottorato negli Stati Uniti e paradossalmente è proprio lì che ho cominciato a fare queste ricerche su un mio antenato che si chiama Cicco Simonetta. Voi siete a Milano, quindi conoscete la via Cicco Simonetta. Il Cicco era un cancelliere degli Sforza, ed era un appassionato di crittografia oltre che un attentissimo osservatore di fatti politici, e a un certo punto studiando queste sue carte a Yale, che poi sono in parte a Milano, in parte in altri archivi italiani, sono incappato in una serie di strane lettere che gli aveva scritto Federico da Montefeltro, il duca di Urbino. Ecco, e da lì sei partito. Dici, ma cos'è successo veramente? Ma cos'è successo? Beh, di queste lettere erano delle lettere che sembravano un po' queste telefonate intercettate dei nostri politici, in cui si faceva una serie di rivelazioni a metà, in cui si diceva sostanzialmente che c'erano una serie di soldati del duca di Urbino che erano stati avvistati fuori da Firenze. E non si capiva bene perché avrebbe dovuto stare lì, facendo poi una serie di altre ricerche ho rimesso tutti i pezzi insieme. Dunque, La Congiura dei Pazzi, dovremmo forse ricordarlo. Esatto. Allora, agli ascoltatori, infatti è stato un evento appunto molto sanguinoso che è avvenuto a Firenze il 26 aprile del 1478. Era una domenica come oggi tutti i fiorentini andavano a una grande messa dopo Pasqua, e fra i fiorentini ovviamente c'erano anche Lorenzo e Giuliano dei Medici, i quali avevano l'abitudine di frequentare questa messa sui due lati del Duomo, proprio per così, non so, per precauzione o per semplice abitudine appunto. Nel momento in cui il sacerdote sollevò l'ostia da benedire, due gruppi di assassini si approcciarono ai due fratelli. Giuliano fu massacrato. Aspetta, no, no, adesso non ricordiamo tutto. Arriviamo a questo punto. I fratelli sono avvicinati da due gruppi diversi di assassini. Succede sì. Qualcosa, e tra poco vi racconteremo che cosa succede, ma soprattutto la domanda è: chi fu il vero mandante? Il riposo del guerriero. È il 26 aprile 1478, è domenica, siamo nel Duomo di Firenze, da un lato Lorenzo de' Medici, dall'altra parte Giuliano de' Medici stanno assistendo alla messa quando un gruppo, due gruppi anzi distinti, di facinorosi si avvicinano con non belle intenzioni ai due fratelli. Marcello e Simonetta eravamo rimasti qui col fiato sospeso. È un momento di grande tensione e suspense. Quello che succede è che il povero Giuliano cade sotto i colpi di questi assassini. Ho scoperto recentemente che soffriva anche di un'ernia inguinale, il poverino, per cui non poteva neanche difendersi un granché. Mentre Lorenzo, con uno scatto di nervi, riesce a parare il primo colpo e poi, con l'aiuto dei suoi amici, alcuni dei quali muoiono nel processo, riesce a rifugiarsi dietro le porte bronze della sacrestia del Duomo di Firenze. A questo punto la congiura cosiddetta dei pazzi è in sostanza sventata, perché uno dei due fratelli Medici è sopravvissuto. Ecco, ma chi sono questi pazzi? Nel senso che pazzi è un cognome, non è un aggettivo. È diventato anche poi un aggettivo, ma era una famiglia di banchieri rivali dei Medici che cercavano di sostituirli nel controllo politico della città. Ma dai, strano. Strano, vero? Ma quello che alla storia non è arrivato come versione autentica è il fatto che dietro a questa famiglia di pazzi ci fossero in realtà degli altri registi, ed erano sostanzialmente dei pupazzi in mano di chi? Quello che io ho dimostrato in questo mio libro L'Enigma di Montefeltro è che appunto il Duca di Urbino era in realtà il motore strategico di questo assalto ai Medici, e aveva organizzato addirittura un'occupazione militare di Firenze, perché se i due Medici fossero stati uccisi sarebbe stata necessaria una forza appunto militare per controllare i potenziali moti nella città. Quello che in effetti successe fu che a causa della mancata uccisione di Lorenzo l'allarme in città fu immediatamente suonato, le porte della città furono chiuse, e questo paio di migliaia di soldati che erano alle porte appunto non riuscirono a entrare, e a quel punto Lorenzo, che era un gran furbone, capì che faceva meglio a non inimicarsi il Federico da Montefeltro, che era forse l'uomo più pericoloso che c'era in Italia in quel momento, perché controllava non solo le sue truppe famigerate per la loro violenza, ma anche quelle del Papa. E di conseguenza Lorenzo, che sapeva di avere a che fare con un mercenario, decise di far finta di non sapere nulla. Io questo l'ho ricostruito grazie appunto alle lettere che Federico Montefeltro scrisse al mio antenato Cicco Simonetta. Poi a un certo punto ho anche trovato una lettera cifrata che sono riuscito a decifrare, in cui Federico Montefeltro scriveva appunto al Papa incitandolo all'azione contro Lorenzo, un'azione appunto come si dice risolutiva. Ecco, quanto Sisto IV credo fosse in effetti c'entrava con questa storia, cioè era solo una figura tra virgolette ai margini di tutta la vicenda, perché c'era un'altra macchinazione, o il Papa era davvero d'accordo come qualcuno disse? Quello che si capisce dalle lettere che io ho ricostruito è che lui chiaramente sapeva tutto, sapeva i dettagli di questa azione progettata. Non ha fatto molto per non farla cadere. Tra l'altro, se ti interrompo e poi vediamo la verità, e tra l'altro credo che anche il giorno prima, il sabato, abbiano tentato durante un banchetto di far fuori i due fratelli, ma non ci sono riusciti, appunto perché Giuliano pare non stesse bene. Non sappiamo esattamente la data di questo banchetto, ma hanno organizzato un banchetto a Fiesole Giuliano non poté andare, e di conseguenza sapevano che uccidendo un fratello l'altro sarebbe diventato molto più potente, decisero di non proseguire. Però per rispondere alla tua domanda sul Papa, il Papa secondo me è la figura più diabolica, ecco, in questa storia, perché lui in questa sorta di conversazioni intercettate parte, che sono le confessioni di uno dei congiurati, che avrebbe dovuto uccidere Lorenzo, ma che si rifiutò di farlo, pensa un po', perché non perché non voleva uccidere qualcuno, ma perché non voleva commettere un sacrilegio in una chiesa. Quindi immaginati un papa che è d'accordo con l'uccisione di dei leader, ma di non città, il luogo, ecco. Tutto, ma non la chiesa. Mi ricorda lo sparafucile di Verdi, che ha questa sua etica da assassino e quindi deve fare le sue cose a modo suo. Beh, insomma, il Papa avrebbe detto in queste conversazioni: io voglio che si elimini Lorenzo, ma che questo avvenga senza spargimento di sangue. Il che era come sostanzialmente dire: fatelo senza che io ne sappia nulla, ma era impossibile rimuovere i medici da Firenze senza degli atti di violenza. Certo, ma anche a quell'epoca devo dire che si usava spesso far fuori gli avversari, era il metodo diciamo più veloce, avvelenarli o ucciderli per prendere il potere, ecco. Sì, ecco, però farlo dentro una chiesa con la benedizione di un papa, diciamo, non succedeva proprio tutti i giorni. Direi proprio di no, forse è stata anche l'unica volta. E dobbiamo dire, credo, che poi Lorenzo, quello soprannominato il Magnifico, avendo anche amore moltissimo per l'arte e la cultura, e qui torniamo anche al teatro del quale parlavamo prima, insomma è sempre l'amore per la cultura e l'arte che fa muovere le cose, io ho letto da qualche parte che alla fine fece pace con il Papa, cioè non se lo inimicò, anche se aveva intuito tutto, e anzi fece in modo di affrescare la Cappella Sistina, se non mi sbaglio. Beh, questa è parte in realtà della storia che ho raccontato nel mio libro Enigma, sì, a Montefeltro, perché la mia teoria è che Botticelli, che era un pittore vicinissimo ai Medici per tante ragioni personali e artistiche, in effetti fu chiamato insieme ad altri due pittori fiorentini, Ghirlandaio e Cosimo Rosselli, ad affrescare le pareti della Sistina. Stiamo parlando ancora ovviamente non del soffitto, che sarà affrescato a Michelangelo molto dopo. E la mia teoria, che è complicato spiegare qui, è che Botticelli lasciò una sorta di codice visuale prendendosi una vendetta segreta contro questo papa che aveva commissionato l'omicidio del suo grandissimo amico Giuliano de' Medici. Quindi di nuovo dissimulazione da parte di Lorenzo il Magnifico, magnifico nel senso della politica, che fa pace con il papa perché è costretto a farlo e non può non farlo, ma poi progetta una sua vendetta artistica, non solo, ma anche poi politica, perché riesce a far, col papa successivo, a fare eleggere il suo primogenito cardinale, e questo Giovanni de' Medici diventerà poi il primo papa Medici, Leone X, qualche anno dopo. Poi addirittura, e questa è la cosa con cui concludo il mio libro, il personaggio che diventa papa successivamente, che si chiama Clemente VII, era il figlio illegittimo di Giuliano, cioè lo stesso Giuliano che fu ammazzato nella congiura dei pazzi, e questo Clemente VII è responsabile della rimozione del ritratto di Sisto IV dalla Cappella Sistina, che si chiama Sistina proprio perché Sisto IV l'ha costruita. Quindi fra papi si fanno una guerra artistica, e il figlio di una persona che è stata uccisa a causa di un papa precedente uccide l'icona del papa precedente nella cappella più sacra. E questa questa è la domanda che così sì, un po' provocatoriamente facevo all'inizio, no? Quanto la memoria in realtà a volte comunque sia conserva dell'odio e del rancore, e quindi non porta alla pace, no? Perché proprio il ricordo di tutti i fatti che ha portato all'eliminazione poi del ritratto di Papa Sisto IV, ovviamente. E, tra le altre cose, se avrete l'occasione mai avrete la fortuna di così camminare per Firenze con Marcello Simonetta, scoprirete anche moltissime altre vicende, tutte da raccontare e da ascoltare. È sempre un piacere ascoltarti, Marcello, davvero. Sei in Francia, se non mi sbaglio, in questo sì, periodo. Sono a Parigi, dove ho finito finito il mio ultimo libro sul fratello di Napoleone, Luciano Bonaparte, un personaggio che meriterebbe un altro discorso. E beh, si è già meritato un libro, per cui di conseguenza ci sarà molto da raccontare. Lo faremo in una prossima puntata. Io vi ricordo l'Enigma Montefeltro, edito da Rizzoli, per così capire ancora meglio questa storia e anche divertirvi, perché quando lo leggete sembra di leggere fondamentalmente un romanzo, no? Una costruzione, anche se è tutto vero, Marcello. Non lo è. Quest'estate ho fatto una chiacchierata con Umberto Eco e pensavamo proprio alle strane coincidenze. Lui ha ambientato l'ispirazione della biblioteca dal nome della Rosa e la stessa biblioteca di Yale in cui io ho trovato quei documenti da cui è partita la mia ricerca. Però stranamente il suo libro è un vero romanzo, cioè un thriller, mentre il mio in effetti è un saggio narrativo in cui ho cercato di mettere tutti i dettagli che sono documentati nella storia. E quindi si legge come un romanzo, ma in realtà non lo è. Ed è bello sicuramente. Alla fine ci dovrebbe essere scritto: e tutto questo è vero, punto. Ecco. Sembra inverosimile, ma è vero. E ci ricorda purtroppo tanti episodi della politica contemporanea, non solo italiana, perché la natura umana non cambia poi così tanto. Assolutamente no. E infatti è interessante proprio conoscere la storia, in questo senso, non dimenticare per capire. Grazie ancora Marcello Simonetta, buona domenica. Buona domenica a te Stefano. Grazie, ciao. E tra pochissimo un'altra ospite, mentre un'altra è un matrimonio, non riusciamo a trovarla e ci dispiace perché ha scritto un libro molto interessante. Il riposo del guerriero. Ormai è diventata quasi una voce fissa nel riposo del guerriero la nostra Francesca Dragotto, ricercatore nel settore glottologia e linguistica all'Università di Roma Tor Vergata. Ciao Francesca. Buongiorno Stefano, buongiorno a tutti. Parlando di storia e memoria, chiaramente non potevamo non dare un occhio anche alla lingua italiana. Francesca, io comincerei con una domanda assolutamente per te nuova, nel senso che mi è venuta in mente adesso. Ma si dice pazzi, siamo pazzi dalla congiura dei pazzi, famiglia pazzi fiorentina, oppure non c'entra assolutamente niente, è un caso? Che tu sappia. Una domanda dell'ultimo sì, minuto. Che non dovevo farti adesso, ovviamente. No, la parola pazzo è una parola che risale più o meno al Medioevo. Per quello che ricordo, le prime attestazioni dovrebbero risalire al 1300, 1270, 1300. Ecco, quindi non c'entra niente, è solo una casualità, insomma. Sì. Ecco, vabbè. Sì, sì, sì. Allora torniamo, non volevo metterti in difficoltà, fra l'altro, no, scusami. Assolutamente. Anzi, approfitto per dire che l'etimologia della parola è incerta, per cui si apre, come è stato un po' di tempo fa per bufala, si dovrebbe aprire una discussione per cercare di individuare quale possa essere stato l'etimo originario, perché poi lo troviamo attestato lungo tutta la storia della lingua italiana con il significato più o meno simile a quello tutt'oggi utilizzato, ma non sappiamo in che modo si sia venuto a formare questo nucleo semantico. Interessante, quindi magari la storia poi può esserne anche parte. Allora Francesca, cominciamo con il salve, perché un'ascoltatrice ci ha proprio chiesto di, siccome parliamo di memoria e di ricordi, ci ha chiesto di parlare della parola salve, che ormai è quasi completamente dimenticata, forse la si ritrova ancora su alcuni zerbini, no? Sai che c'è scritto salve sopra e uno si ricorda allora che esiste quella parola. Sì, c'è l'abitudine da lungo tempo di utilizzare il salve come formula di saluto e augurale sulle soglie delle case, sugli zerbini, più anticamente anche sulle pareti di ingresso. In realtà la parola negli ultimi decenni, in particolare negli ultimi due decenni, è ritornata in circolo come formula di saluto, soprattutto nell'area dell'italiano centrale, perché è sentita meno impegnativa e meno formale rispetto a buongiorno, di cui è diventata di fatto sinonimo, pur non essendolo letteralmente. Il caso di salve è uno di quei casi in cui il significato originario del termine si perde con, nonostante l'uso della parola, ma si perde con il tempo. È infatti originariamente l'imperativo di salvere. Salvere, un verbo collegato all'aggettivo salvus, dà una radice che si può pronunciare salve o salu a seconda della parola in cui si trova. In altre parole è la radice della salute, la radice della salvezza. Come si passa dall'idea dello stare bene, che poi ritroviamo in salve, perché salve sta per stammi bene, bene e poi soltanto dopo per perdita di significato. Buongiorno, ma come si passa da quest'idea del benessere all'idea del salutare? Attraverso quel salutem dare, quindi augurare, dare la salute, quindi un augurio di benessere alla persona che si incontra. Quindi forse salve è più bello di buongiorno dal punto di vista del significato. Beh, dal punto di vista etimologico sicuramente c'è una maggiore partecipazione, c'è un maggiore coinvolgimento dei partecipanti all'interazione comunicativa, che nel momento in cui si incontrano non si limitano a scambiarsi un cenno che poi può fungere anche proprio da apertura stessa del discorso. Le formule di saluto sono quasi una sorta di punteggiatura del discorso, no? Ci servono per capire che siamo in contatto, che siamo ben disposti alla comunicazione e che non solo siamo ben disposti, ma anche che lo siamo in maniera educata. E da certi punti di vista la partecipazione affettiva che ritroviamo in salve la ritroviamo anche nell'altra parola panitaliana, e ormai non solo panitaliana, ovvero ciao, sì, utilizzata come formula di saluto, che come probabilmente molti sanno ha a che fare inizialmente con la parola per schiavo. È la parola schiavo pronunciata alla veneziana, in cui poi si è persa la S iniziale, quindi da un qualcosa che doveva suonare più o meno, mi scuso per la pronuncia, ciao, quindi non sc ma sch, leggermente sì, separati, dalla perda, dallo scorporamento di S è rimasto questo elemento ciao, da ciavo, schiavo appunto, che si è poi che suonava come un servo suo. Ecco, ci incontravamo, ciao, sono suo servo, sono a sua disposizione, mi rimetto alla sua volontà. Nel momento in cui i rapporti gerarchici si sono allentati, la parola è rimasta, ma via via è andata ad acquisire un significato più neutro, ha avuto una sorta di sbiadimento fino a diventare una semplice formula di saluto, anzi piuttosto informale. Ecco, quindi il saluto più bello secondo te, Francesca, da mantenere, che non andrebbe perso assolutamente, qual è? Beh, innanzitutto è difficile che la lingua perda qualcosa completamente. Il più delle volte noi assistiamo a delle riduzioni, a dei restringimenti del significato, a volte a delle polarizzazioni, quindi il significato originario va a rimpicciarsi in un angolo perché viene soppiantato da significati nuovi, sentiti come più moderni, spesso presi successivi al contatto con un'altra lingua. Però appunto è difficile che la lingua butti qualcosa completamente. Mi viene in mente un'altra parola del lessico fondamentale, la parola per la farina, pronunciata, se non erro, intorno fino al 600, farina, quindi con una R in più, diciamo, esattamente, in realtà non è proprio una R doppia, ma è una R più forte. Allora, quando dico farina, si capisce benissimo che inizialmente il termine non aveva la valenza generica di polvere utilizzata per produrre alimenti, ma semplicemente farro sminuzzato. Certo. Che cos'è la farina? Il farro sminuzzato. Nel momento in cui il farro non viene più utilizzato come cereale primario nella panificazione, perché eliminare il termine che però funzionava? Lo stesso termine viene spostato e passa ad indicare una qualunque sostanza sminuzzata, possibilmente dalla stessa sembianza della farina originaria. Tant'è che oggi diciamo farina in riferimento al mais, al gran turco e così via. Certo, certo. Beh, useremo quindi sa al posto di salve, magari un'abbreviazione che possa... Orribile. Orribile. È meglio evitarlo, va bene. Grazie Francesca, ciao. Grazie. Buona domenica. Ciao. Che salve bello, se poi così il suo senso è ancora... Conoscere nel senso ovviamente è ancora più bello e fa bene usarlo. E a questo punto, allora c'è Giuseppe Castellarin che saluto. Giuseppe, buona domenica. Buona domenica a voi, buona giornata. Giuseppe Castellarin è autore di un libro da poco pubblicato intitolato Salviamo la memoria, il rito del racconto. Giuseppe, perché credi che nel racconto ci siano i fondamenti per una buona educazione, una buona vita, da quello che capisco dal tuo libro? Ecco, mi rifaccio un po' ai racconti che una volta venivano fatti in cucina, attorno al focolare o nei filò delle stalle, da parte dei cosiddetti raccontatori, raccontatori che raccontavano storie vere, inventate, magari favolette, ma che riportavano sempre a una morale, morale che proveniva ed era consolidata nelle tradizioni della vita. Questi raccontatori incarnavano così i valori della cultura, della propria cultura, della cultura di quel gruppo sociale, anche se fatta di sacrifici e di umile tenacia, ma che si consolidava nelle persone in una profonda stima di se stessi. Ecco, e questi raccontatori erano, purtroppo ora abbiamo perso questi raccontatori, e abbiamo perso quindi anche la possibilità di tramandare nelle nuove generazioni questi valori, questi legami alla propria cultura, questa stima di se stessi che c'era un tempo, sto parlando dei primi anni del 1900. Sì, io credo ancora oltre, perché i racconti fondamentalmente credo che sono andati avanti e questa tradizione del raccontare ancora per molti anni dopo. Ecco, forse recentemente si è persa e si preferisce raccontare altre, si raccontano le fiabe, diciamo così, ai bambini, però poi si è perso un po' l'idea del racconto, come dicevi tu, anche del favoleggiare dei momenti di vita, no? Quindi magari fare di un personaggio di un paese l'elemento chiave per poi raccontare qualcos'altro, o addirittura di un animale. C'è il racconto del ragno, per esempio, che chiaramente è un racconto inventato, che però ha una sua morale. Il ragno, le rane, questo perché raccontavano delle storielle anche, che però avevano una loro morale alla fine. E questo veramente costruiva le persone. Questo... Ecco, tu credi che quindi questa mancanza del racconto in qualche modo aiuti anche a svilire in qualche modo la personalità? Ma non a svilire, a non arricchirla sufficientemente, a non corazzarla. Noi stiamo vivendo un momento di incontro di culture, di civiltà. Sì. E se non si ha una profonda stima di se stessi, questi incontri diventano scontri, diventano razzismi, diventano momenti di conflitto. Ora, proviamo a pensare un po' i nostri padri, i nostri nonni, che nelle vicende migratorie che hanno dovuto affrontare, negli sconvolgimenti bellici che hanno vissuto, e hanno dimostrato come fossero capaci di dialogare con le culture diverse, senza razzismi. Perché? Perché la propria autostima li proteggeva, perché i valori delle proprie radici li proteggevano, e i valori delle proprie radici si ottenevano proprio attraverso questo tramandare con i racconti come si viveva, come i valori, ecco, i valori di una società che era unita e nello stesso tempo rispettosa degli uni degli altri. Ecco, allora cerchiamo di far più franca e forte la nostra personalità, cominciando magari leggendo anche il libro e imparando i racconti e a nostra volta raccontandoli. Grazie Giuseppe Castellarin, buona domenica. Vi ricordo il libro Salviamo la memoria, il rito del racconto. Il riposo del guerriero. Le 11:07, ancora buona domenica da Stefano Gallarini. Qualcuno sta facendo domande sul Salve, le proporremo di nuovo a Francesca Dragotto, sentiremo le risposte, perché poi chiaramente la lingua italiana è così desta sempre curiosità, un po' ce la stiamo dimenticando, per cui è giusto anche sapere e essere curiosi. Voglio ricordarvi il numero verde ancora, perché tra poco alle 11:30 giocheremo con il mistero in 24 minuti, 1000 euro per voi da spendere su libreriarizzoli.it, il numero per prenotarvi 800 24 00 24. Stavamo parlando di memoria e volevo farvi ascoltare il momento finale di un film che della memoria fa il centro del suo racconto. Devo credere in un mondo fuori dalla mia mente. Devo convincermi che le mie azioni hanno ancora un senso, anche se non riesco a ricordarle. Devo convincermi che quando chiudo gli occhi, il mondo continua a esserci. Allora, sono convinto o no che il mondo continua a esserci? C'è ancora? Sì. Tutti abbiamo bisogno di ricordi che ci rammentino chi siamo. sono diverso. Allora, a che punto ero? L'incidente che avete sentito in realtà è soltanto un ricordo. Questo è il protagonista di Memento, che fa una riflessione alla fine del film. Un protagonista che a causa di un incidente non ricorda più nulla, ha una memoria brevissima, quindi deve scrivere tutto su dei tatuaggi, si tatua completamente il corpo e poi scatta anche tante polaroid. Francesco Aquilar, buona domenica, psicologo e psicoterapeuta cognitivo, buona domenica. Buongiorno, buona domenica a lei e a tutti gli ascoltatori. Allora, dottore, cominciamo da questo. Tutti abbiamo bisogno di ricordi che ci rammentino chi siamo? Inevitabilmente sì, e infatti tutto quello che riguarda lo studio delle amnesie descrive una disperazione della persona che perde la continuità della sua memoria. Per quanto noi facciamo una serie di operazioni sulla nostra memoria, la memoria non è neutra. Noi selezioniamo quello che ricorderemo e quello che cancelleremo con delle regole precise. Ecco, quali sono queste regole? Anche perché un'ascoltatrice, per esempio, scrive magari fossimo noi padroni della nostra memoria, è la memoria padrona di noi, è vero? Per certi aspetti è padrona di noi, ma per certi altri no. Siamo noi che selezioniamo i ricordi. Per esempio, per spiegare questo concetto, la nostra emozione, la nostra opinione del momento regola i ricordi che saranno accesi e quelli che saranno spenti. Se io sono in armonia con un mio amico, io selezionerò nella mia memoria tutti i ricordi che confermano questa sensazione di armonia. Mentre invece se io ho litigato con il mio amico e non voglio più vederlo, la mia memoria automaticamente selezionerà tutti gli episodi del passato congruenti con l'opinione e con l'emozione del presente. Ecco, professore, allora qui arriva la considerazione iniziale con cui avevo aperto la puntata, che era questa. È inevitabile, probabilmente, che quando si ricordano fatti terribili, come appunto l'11 settembre, uno dei tanti fatti terribili che sono avvenuti, immancabilmente in qualche modo si alimenta anche l'odio o comunque il rancore, no? Perché sono fatti arrivati, cioè, che sono capitati per delle ragioni molto precise. E allora la provocazione è, non è che invece è dimenticando che in qualche modo si può aiutare veramente la pace in generale? Ma rispetto alla pace bisogna contestualizzare gli episodi. È un argomento di studio notevole quello dei processi cognitivi collegati ai processi di pace in questo momento nel mondo, e la questione non è cancellare o enfatizzare, ma è integrare, proprio perché, come dicevo prima, la nostra memoria tende ad eliminare i ricordi dissonanti con la nostra emozione del momento. Quindi rimane sicuramente l'emozione di tristezza, di rabbia, di impotenza, di dolore, ma va contestualizzata sia storicamente che politicamente all'interno di un processo più ampio. Quindi che deve restare una commemorazione, ecco, per ricordare per esempio i caduti, ma non dovrebbe questa memoria alimentare altro, quello dovrebbe essere il processo corretto, tra virgolette. Certamente, perché dobbiamo riposizionarla storicamente all'interno di una serie di eventi che si sono succeduti. E oltre il concetto di memoria selettiva, l'altro concetto importante della psicoterapia che possiamo utilizzare è quello di punteggiatura, soprattutto quando si lavora con le coppie. Per esempio, immaginiamo due coniugi che stanno litigando, ognuno comincia la storia del litigio in un momento diverso e quindi noi dobbiamo essere consapevoli del fatto che ogni evento aveva un antefatto e se vogliamo ricominciare dall'inizio non lo troveremo mai. Quindi occorre contestualizzarlo sapendo che non possiamo riconoscere una punteggiatura corretta. Ecco, c'è un modo per in qualche misura governare la nostra memoria? Cioè imporci di ricordare o di dimenticare, o proprio non è assolutamente possibile? È sicuramente possibile intervenire sulla nostra memoria ed è una delle cose che si fanno normalmente in psicoterapia e anche in psicoterapia sociale, cercando di intervenire sulla società e sui mezzi di comunicazione di massa. In realtà la prima operazione da fare è appunto la consapevolezza della selettività della nostra memoria. La seconda è evitare di ripeterci continuamente in mente soltanto alcune parti degli eventi che sono accaduti. se io sono scivolato su una buccia di banana e me lo ripeto in me 100 volte al giorno, è come se io fossi scivolato 100 volte su quella buccia di banana, mentre invece l'evento è accaduto una volta sola. Quindi si tratta di imparare a diventare onesti con la nostra memoria, forzarla leggermente in questa maniera integrativa e rispettosa della frequenza reale dell'evento. Ecco, quindi insomma è un lavoro che dobbiamo fare, questo credo quotidianamente, no? Perché è proprio il continuo ricordo, per esempio, di qualcosa che ci è andato storto, che non ci aiuta certo a far migliorare le cose, per cui in qualche modo dobbiamo partire veramente, veramente da noi. E, allora, professore, io a questo punto sulla memoria avrei molte altre questioni, molte domande ci sono, e comunque fondamentalmente è bene alla fine non dimenticare, lasciare sempre qualcosa nella nostra memoria e quindi non cancellare niente, o qualcosa dobbiamo davvero riuscire a cancellarlo completamente? Dobbiamo cancellare e lasciare correre il superfluo, nel senso che la nostra memoria cerebrale è come la memoria di un computer. Se vogliamo tenere dentro tutte le cose, incluse quelle inutili, finiremo col non avere spazio per ricordarci quelle significative. Dobbiamo imparare a buttare via, quindi. Buttare via, cancellare quello che è irrilevante, a condizione di essere sicuri che sia irrilevante davvero. Ecco, non so quanto sia facile, però insomma ci proveremo, è un po' come le cose, no? Siamo sempre convinti che sia necessario averle, poi quando le buttiamo ci siamo accorti che non era necessario affatto averle, però ce ne rendiamo conto sempre troppo tardi. Significato la discriminante. Grazie professore, buona domenica. A lei, arrivederci. Le 11:15 di aggiornamenti sul traffico e continuiamo a parlare di memoria. Il riposo del guerriero. È tornato dalle vacanze anche il nostro esperto di marketing virale, autore di blog Guerriglia, Fabless. Ciao, buona domenica. Ciao Stefano, buongiorno, buona domenica. L'11 settembre chiaramente è stato ricordato anche dalla rete, è usato e anche abusato. E ci vuoi fare qualche esempio di come qualcuno ha usato e, come dicevo prima, abusato probabilmente di questo evento? E guarda, ci sono alcune campagne stampa che in questi anni hanno fatto molto discutere. Una, ad esempio, è quella del WWF, storica organizzazione non governativa, che ci fa vedere praticamente il solito skyline newyorkese, dove però, diciamo, verso le Torri Gemelle non puntano solamente due aerei, ma bensì moltissimi aerei. E diciamo che l'immagine è spiegata attraverso una scritta che dice: lo tsunami ha ucciso 100 volte più dell'11 settembre. Il pianeta è brutalmente potente, rispettalo e preservalo. Questa è tra l'altro una campagna stampa che ha avuto anche al seguito un video che praticamente ripercorre più o meno ciò che si vede nell'immagine, vale a dire due aerei, i primi due aerei che colpiscono le Torri Gemelli, e poi arrivano decine e decine di aerei da diverse parti che puntano tutti verso il centro di New York. La pubblicità ha dato comunque sia fatto molto scalpore, tant'è che poi l'organizzazione ha dovuto in qualche modo rimuovere la campagna stampa, che tra l'altro era stata diffusa nella cartellonistica in giro per New York. Ecco, in generale le pubblicità che hanno utilizzato questo fatto, questo evento, sono state rimosse, per esempio, comunque sono state tutte contestate? O... Sono state tutte contestate, sì. Te ne faccio vedere, te ne parlo di un'altra che ha avuto ancora, diciamo, ha dato ancora più scalpore. Sì. Ed è quella di un giornale di informazione, di un settimanale francese, Courier International, famosissimo, che aveva lanciato una nuova campagna in occasione del ventennale, diciamo, della nascita del giornale stesso, e si vede di nuovo lo skyline di New York con le Torri Gemelle leggermente più abbassate. Gli aerei passano sopra e in qualche modo lisciano i due palazzi, uno verso destra e uno va verso sinistra. La scritta in basso a destra, il cosiddetto payoff, dice: learn to anticipate. Imparate ad anticipare, certo. Esattamente, anche qui naturalmente la pubblicità ha creato molte polemiche. Anche perché è una provocazione. Molti, sì, esatto, e molti hanno pensato: ok, se l'avessimo saputo prima, certo, avremmo fatto il vuoto essere più basso. Oh, sì, chiaramente è una. Infatti, non so neanche il valore dal punto di vista, sì, come chiamiamolo, divertissement tra pubblicitari, può essere anche interessante. E invece, essere pubblicato e quindi scelta, lì in effetti c'è molto da dire, onestamente. Sì, diciamo che a volte, ecco, sono campagne magari create solo ed esclusivamente proprio per creare polemiche, per farne parlare. Insomma, nella pubblicità tradizionale molto spesso c'è ancora il detto bene o male purché se ne parli, cosa che comunque sia ogni tanto fa un po' acqua da tutte le parti, insomma, questa affermazione, visto che poi in realtà è l'immagine del prodotto che, se vogliamo, ne risente più di tutti. Esatto. Poi c'è un'altra campagna stampa ancora, che è di un'organizzazione invece che si schiera contro il tabagismo, se vogliamo, sì, e della hash, e fa vedere le due torri gemelle in realtà sostituite da due sigarette fumanti. Naturalmente una è più bassa dell'altra, così come erano le due torri gemelle, una brucia un po' di più, l'altra brucia un po' di meno, e di nuovo fa sotto delle statistiche tremende, perché dice il terrorismo dal 2001 ha ucciso 11.377 persone, il tabacco ne ha uccise 30 milioni. Ecco, c'è sempre questa comparazione, devo dire, cioè la ritroviamo molto spesso. Poi invece spostandoci e parlando invece di un altro fatto, che è il disastro di Chernobyl, c'è una campagna che tu hai proposto anche nel tuo sito blog Guerriglia di Greenpeace, se non mi sbaglio. Sì. Che è stata fatta al Circo Massimo e che comunque prende spunto da un evento terribile, ma raccontandolo chiaramente in un modo completamente diverso. In modo totalmente diverso, sì, a distanza di 25 anni dal disastro di Chernobyl, in effetti gli attivisti di Greenpeace cosa hanno fatto? Hanno posizionato qualcosa come 2.000 croci sul tutto quanto, diciamo, per tutto quanto il Circo Massimo, per circa i 150 metri di Circo Massimo, con la scritta, tra l'altro, era il periodo in cui c'erano le elezioni per c'era il referendum in Italia, e sì, c'era la scritta che diceva: qui giace il nucleare italiano morto il 13 giugno 2011 in cabina elettorale. Ed è, diciamo, una se vogliamo un'azione molto simbolica che riporta la memoria di un evento comunque sia particolarmente disastroso. Esatto, le foto sono impressionanti e interessanti anche per le energie che sono state spese da Greenpeace per costruire questa campagna. Insomma, sicuramente è interessante vedere come è possibile muoversi per raccontare e anche appunto per fare in modo che non si dimentichi e che la storia possa insegnarci qualcosa. Se volete vedere le foto, blogguerriglia.it. Grazie Fables di essere tornato con Riposo del Guerriero. Buona domenica. Buona ciao. 11:22 minuti, è arrivato anche il momento del nostro gastronauta. Ascoltate, Uliveto, acqua della salute, aiuta a digerire meglio. Vi presenta il gastronauta. Davide, ciao, buona domenica. Buona giornata, buona domenica a tutti. Oggi parliamo di memorie e di ricordi. C'è qualcosa, secondo te, nell'enogastronomia che stiamo completamente dimenticando o che abbiamo completamente dimenticato, o qualcosa che stiamo recuperando? Ma diciamo che c'è l'uno e l'altro, nel senso che molte cose che avevamo perso, piano piano le stiamo recuperando. Una che sicuramente non recupereremo più sono i profumi dei prodotti in passato, perché in realtà si parla sempre di tradizione, si parla sempre di piatti perduti, si ripropongono, però quei profumi non tornano. Ad esempio il profumo del pane è molto difficile recuperarlo, quel pane che durava 7 giorni e ormai il pane dura 4 ore e poi è diventato immangiabile. Si sono perduti moltissimi prodotti che ci sono stati vietati dalle norme igieniche, sul quale io ho fatto sempre grande battaglia, e quindi quelli si sono perduti, non si troveranno mai più. Ad esempio il sanguinaccio, che io credo fosse una roba veramente straordinaria, purtroppo il sangue di maiale non può essere più usato in una determinata maniera. È evidente che si sono scoperti poi tanti problemi dal punto di vista, se vuoi, sanitario, che in realtà è stato anche giusto porre dei limiti, però molti profumi si sono persi. Forse si è perso tutto quello che è la cucina di casa. La cucina di casa si è persa, perché ormai sicuramente le donne hanno sempre meno tempo, lavorano, e di conseguenza i lunghi bolliti o i lunghi brasati o la pasta fatta in casa, quella tirata con la sfoglia, quella delle asdore, generalmente in Emilia, in Romagna, cioè ecco, queste cose si sono perdute sicuramente. Oggi però si sta un po' recuperando, nel senso che questo senso del passato, il pane di ieri, la pasta fatta in casa, comincia a tornare, perché io credo che quando ci sono momenti di crisi, ci sono momenti difficili, probabilmente la memoria torna a ruotare e si torna indietro, si torna a quello che portava piacere, magari non era così, però psicologicamente porta piacere, quindi si torna sicuramente indietro. Ecco, ma tu dici che torna, per esempio, la pasta fatta in casa o il pane, come il pane di una volta, torna sulle nostre tavole in casa o torna sulle tavole dei ristoranti? Perché c'è una bella differenza, però. No, io in questo momento sto parlando di cose casalinghe, dico il pane purtroppo sono i panettieri. Io ieri ho fatto una trasmissione appunto su questo e devo dire che il 50% degli SMS che mi sono arrivati, erano tanti, mi dicevano letteralmente, mi spiace usare questa parola quando si parla di cibo, però la devo usare perché ben 4-5 radioascoltatori l'hanno usato, il pane in Italia fa schifo rispetto a pani di altri paesi europei. Allora il pane sicuramente sta tornando con molte difficoltà, ci sono dei bravissimi giovani panettieri che stanno cercando di riportare, ma con grandi difficoltà, perché il problema è che proprio appunto come ormai è evidente, pochi vogliono fare il panettiere perché c'è il lavoro di notte e pochi vogliono fare le lunghe lievitazioni, e quindi questo porta appunto dei risultati di questo genere. Io credo che torni magari in una nicchia di persone che amano ancora, diciamo, questo tipo di vita, e quindi amano magari farsi la pasta fatta in casa con fatica il sabato e la domenica, però torna con difficoltà. Ormai i ritmi di questa civiltà sono molto, molto più veloci del passato, forse chissà, questi momenti anche di crisi economica forse potrebbero reintrodurre dei ritmi più lenti nella vita di ognuno di noi. In questo caso non è una scelta, però purtroppo è una costrizione. Certo, vabbè, quindi è un modo anche per tornare. Forse non è solo una questione tra virgolette di crisi, ma è anche il fatto che la volontà, il desiderio di recuperare quello che si è perso, che si sta perdendo, c'è sempre stata, no? In fondo c'è sempre stata una ruota in questo senso, quello che la tradizione mano a mano è andata, quando spariscono appunto, vanno via, vanno scemando dei ricordi della tradizione, poi c'è sempre qualcuno che cerca di ripescarli. Ma ecco, io voglio precisare una cosa sulla tradizione, perché secondo me, diciamo, diamo a questa parola, a questo termine, a questa realtà un significato molte volte sbagliato. Cioè, la tradizione non è un fatto fermo, la tradizione dal punto di vista antropologico è un fatto in movimento, per cui ricordo sempre che la tradizione è un'innovazione riuscita, quindi non dobbiamo fare i nostalgici di fissare a 20-30 anni fa un prodotto, un piatto, qualcosa. C'è un'evoluzione però che rimane ad ancorata a dei principi, a dei valori e diciamo a degli schemi del passato. Quindi ritrovare pedissequamente quello che abbiamo perso è impossibile, è una chimera. Io credo che dobbiamo pensare appunto che la tradizione è un'innovazione riuscita, e quindi dobbiamo sempre guardare avanti, non semplicemente sempre pensare al futuro, però pensare al futuro ma ancorato al passato. E non lo dico io, ma diciamo che è abbastanza cinoto, non c'è futuro senza passato. Ecco, quindi cerchiamo, se possiamo oggi, di magari sederci davanti al nostro piatto di pasta fatta in casa, se qualcuno ancora la fa, mia mamma ancora la fa, io sono felice, però poi non lo so chi la farà dopo. No, ma ecco, quello che voglio dire è che la pasta fatta in casa magari non si fa più col mattarello, ma si fa con queste macchinette, però c'è la fase dell'impasto che si fa ancora a mano. Ecco, allora questa è un'evoluzione. Certo, certo. La tradizione, però, che è un'innovazione riuscita, e questa è accettabile. Non è accettabile che si compri già l'impasto già fatto, già pronto, e si metta dentro la macchinetta. Allora qui andiamo completamente fuori. Però ci sono delle fasi che sicuramente possono essere sostituite, ecco, che non intaccano. È vero, tra l'altro farina, acqua e uova, ed è un modo anche per far divertire i bambini, che si divertono molto ad avere le mani in pasta, davvero, li possiamo così far divertire facendo la pasta, e poi il prodotto del loro sforzo lo troveranno sui piatti con tanto di sugo. Potrebbe essere un bel modo per recuperare tutto e passare anche del tempo con i nostri figli. Grazie Davide. Posso dire una cosa? Come? Vai, certo. Io sono a Mantova, non sono per il Festival della Letteratura, ma sono per il Festival del Panettone, perché alle 12 al Bar Borsa di Mantova ci sarà la celebrazione della mia festa del panettone d'estate, quindi sarà una festa particolare e quindi importante, perché all'interno appunto di questo festival della letteratura. Ecco, approfittatene, se non avete mai visto Mantova andateci adesso, subito, dovete farlo assolutamente. Mangerete un ottimo panettone fuori stagione. Perché è una città straordinaria, ogni volta che la vedo mi si apre il cuore. Grazie, ciao, ciao Davide. Ciao, a presto, ciao. Il riposo del guerriero. 800240024, partiamo col nostro mistero. Un mistero in 24 minuti. Fino a 1000 euro da spendere su libreriarizzoli.it, ammesso che riusciate a risolvere il mistero con pochi indizi, anzi con uno solo, perché più indizi ascolterete più il premio si abbasserà. La risposta, una notizia della settimana oppure un personaggio o qualcosa di particolarmente conosciuto. Ecco il primo indizio. Intorno al mondo. Passato, proprio nel passato, nel vero senso della parola. Oriana, ciao, buona domenica. Pronto? Eccoci qua, ciao. Ah, sono in linea? Sì. Ciao, io sono orgogliosa perché sono la stessa Oriana del messaggio. Sì, e sono la ciao. Prima. Grazie, ecco, bene. Hai avuto... Sono veramente orgogliosa e complimenti per tutto. Hai avuto anche la tua risposta, quindi, meno male. Sono contenta. La mia risposta, che tutto sommato un po' di ragione ce l'ho anche avuta. Adesso ce la devi dare tu però la risposta, nel senso che... Adesso provo senza far perdere ulteriore tempo e senza chiedere altre informazioni, perché insomma, tanto è quello che è. Allora, i campionati mondiali di rugby. Grazie Oriana, sai che non posso dire niente. Fino alla fine. Esatto, ciao, buona domenica. Complimenti, ciao, buona Grazie giornata. Grazie davvero, ciao Oriana. Claudio, dalla provincia di Milano. Buongiorno a lei e buongiorno agli ascoltatori. Eccoci qui Claudio, ma tu te la ricordi quella canzone di Lauzi? Sì, che la ricordo scelto? Bene, anche perché ho l'età. Quindi... Hai l'età per ricordartela. Per ricordarmela. Allora, anche da Sergio Endrigo, se non mi sbaglio. Ecco, io infatti era lì che volevo arrivare, perché io non me la ricordavo cantata da Lauzi, anche se penso che fosse proprio di Lauzi. Vabbè, allora Claudio, quello era il primo indizio, che cosa vuoi fare? Una risposta? A questo punto, visto la risposta che ha dato, che era la mia, Oriana, ah ecco, vedi? Chiedo di sentire anche un altro, guarda, indizio. Ascolta che bella canzone ti faccio sentire. Invece tu hai sempre voglia di cantare. Ehi, Rosalina, Rosalina, la mia bella farfallina che pedala e canta, canta finché muore il sole. Quando è sera, sera, la sento masticare. Quando è sera, sera, t'ammazzi con i bimbi. Olè, eccoci qua, questa è la canzone di Concato, il secondo indizio, gran bella traccia. E Claudio, la tua risposta? Non lo so. Mi viene in mente la figlia di Celentano, ma... Rosita Celentano. Sì, ma non perché è grassa, ovviamente. No, ma non lo è, infatti. Ma diciamo la Merkel. Diciamo la Merkel, perché mi sembra una sera di una strada giusta. Grazie Claudio. Solo per la strada, però non so dove andare. Ma la mamma dice che prima o dopo di mamma, che mica è così grossa la strada della Merkel, voglio Vabbè, dire. Comunque non è un cucello. E io Rosalina me la immagino un po' botteriana, cioè sei bella grande, ma è un'altra cosa. Grazie Claudio, ciao, buona domenica. Giacomo da Ferrara. Ciao Stefano. Eccoci qui, Giacomo. Allora, due indizi li abbiamo già usati. Siamo a 500 euro e qualche risposta l'abbiamo data. Tu cosa vuoi fare? Io intanto mi scuso per la voce, che lunedì mi sono operata al naso e quindi non riesco a parlare benissimo. Non è un problema, noi ti capiamo perfettamente. Io darei la risposta. Tu daresti la risposta. Allora vai, sì. Giacomo. Io dico il Giro di Padania, che ha fatto molto scalpore in questa settimana. Grazie Giacomo, ciao, buona domenica. Ciao. Ciao, Enzo da Reggio Emilia. Pronto? Pronto? Enzo, eccoci qua. Sì. Senti, ma te la pasta in casa la fa qualcuno o la fai tu magari? Non lo so. Sì, pasta in casa sì, facciamo, sì, è buona. No, abbiamo appena detto che è una delle cose che stiamo perdendo, speriamo di ritrovarla. Davvero, perché i fast food o cose così, cosa vuoi, non hanno la qualità, non hanno l'amore nel piatto che nel fatto in casa senti. Allora, Enzo, lo so che si sente. Beh, poi tra fast food e la pasta in casa c'è una bella differenza. Allora, vabbè. Cosa vogliamo fare? Altro indizio, altro giro? Una domanda, il titolo della prima canzone, quella di Lauzi, qual è? Girotondo intorno al mondo. Girotondo intorno al mondo. Beh, io quasi quasi un terzo indizio lo ascolterei. Eccoci qui col terzo indizio, scendiamo a 300 euro. Spiegarmi il testo di questa canzone, perché comunque sia, a distanza di molti anni, ancora molte cose mi sfuggono, sinceramente. Comunque, era Marcella Bella di Montagne Verdi, Enzo, l'avrei sicuramente riconosciuta. Allora, sì, è più o meno i miei anni questa canzone qua. Enzo, vuoi dare una risposta? Vuoi prendere il tuo tempo, aspettare le abilità e poi darcela? No, provo. Pensavo subito a quello che ha detto la signora, la prima concorrente dei mondiali del rugby. Sì, sì. Tra l'altro abbiamo fatto una bella figura con l'Australia stanotte. Cioè, umiliato quello, vabbè. Ma andavamo bene all'inizio. Sì, primo tempo eravamo alla pari, poi... Vedi? Poi ci siamo stancati, non so cosa è successo. Il piattone. Allora, no, Enzo. Direi il fatto che l'amministratrice delegata di Yahoo, la signora Barz, è stata cacciata con un SMS, hai visto? Forza, sì. Un licenziamento col messaggino. Sì. Sarà stata molto felice e chissà tu magari di aver portato a casa 300 euro. Grazie, magari. Enzo. Chi lo sa. Ciao, a dopo, ciao. Un mistero in 24 minuti. Mancano 5 minuti alla soluzione del mistero. Risolviamolo sto mistero. Elisabetta da Milano. No, e Lorenzo dalla provincia di Taranto, pronto? Sì, buongiorno a tutti, mi sentite? Ti sentiamo forte e chiaro. Lorenzo. Accetto l'invidia, sono per metà immerso nel mare, sono in riva al mare, quindi ho un po' il rumore delle onde che... Guarda, noi, Lorenzo, onestamente noi non stavamo sentendo assolutamente niente, né il mare né niente. Perfetto. Se ce l'hai detto apposta per farci così ingelosire in qualche modo, ecco, facciamo... guarda un po', non ce l'hanno mica accorti, adesso sì. Do la soluzione e ci provo. Vai, Lorenzo. Giro della Padania. L'hanno già detto, Lorenzo. Non mi viene... No, posso tentare con un'altra soluzione? Devi tentare con un'altra soluzione, questa sì, non vale. Una notizia... che è apparsa su un quotidiano pochi giorni fa, sui famosi girotondini qualche anno fa, che sono, di cui ci siamo dimenticati un po' tutti, che avevano come patron il regista Nanni Moretti. Eccoci qua. Grazie della notizia, Lorenzo, goditi il mare. Grazie, grazie a voi, buon lavoro e buona giornata a tutti. Ciao, ciao. Buona giornata a te. Paolo da Pisa, buongiorno. Buongiorno. Paolo, allora... A parte che anche a me mi viene in mente il giro della Padania. Adesso tutti mi viene in mente la stessa cosa, all'improvviso. No, però allora provo un'alternativa, anche se diciamo il collegamento è breve. Il trovamento di alcune bottiglie lanciate da alcune Miss della prossima edizione di Miss Italia. E questa è la tua risposta? Sì, sì, direi di sì. Ciao Paolo, buona giornata. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Giuseppe da Bari. Pronto? Sì. Ciao Giuseppe. Sì, pronto, buongiorno. Allora abbiamo altri indizi, abbiamo qualche risposta. Sì. Che cosa vuoi fare? Allora, io vi ho ascoltati a tratti perché sono in viaggio e... Allora, facciamo una cosa. Però se ti faccio riascoltare tre indizi non puoi chiederne un altro, eh? No, okay. Gli indizi li ho ascoltati, le tre canzoni le ho ascoltate. Sì. E mi veniva in mente così il discorso che ha fatto Obama per commemorare l'11 settembre. Ok, grazie, ciao. Ciao, Rita. Ciao, grazie, grazie Giuseppe. Manuela da Livorno, pronto. Ciao. Ciao Manuela, salve. Buongiorno. Io sono in macchina, ho passato Livorno e sto andando verso Aprilia. Bene, poi prendiamo la moto e andiamo da qualche altra parte. No, nel senso che ormai il forno l'ho lasciato già da poco. Va bene, va bene. Guarda, okay. Per non fargli perdere tempo, io pensavo a Pippa Middleton. Aspetta un attimo, ormai l'hai già detto, a Pippa, ho capito bene? Sì, sì, Middleton. Andrei a mangiare il sushi tra poco, anche tu? Magari, mi piace. Vabbè, perché Pippa pare che così impazzisca per il sushi. Adesso tutti gli inglesi vanno a mangiare. Sembrano i giapponesi. Quando va di moda una cosa, poi la fanno tutti. Grazie, proprio grazie. Grazie, ciao, Manuela. Ciao, ciao. Fantastici. Ti ringrazio. Maria Teresa da Genova. Salve. Tornare sul salve. Ecco, non dirmi salve anche a te. Non dirmi che tu eri a Genova, però ti stai spostando verso Paraggi, per esempio. No, assolutamente. Okay. Sono ferma in casa. Perché sono un po' immobile in questo periodo. E il discorso è che io senz'altro esco dal seminato, diciamo così. Maria Teresa, un attimo solo, posso far ascoltare i tre indizi che abbiamo scoperto fino a questo momento? Eccoli qua. Un giro tondo intorno al mondo. Rosalina, Rosalina, e tutto il giorno in bicicletta. Mi ricordo montagne verdi e le forze di una bambina. Ecco Maria Teresa, prima che tu mi dia la tua risposta che esce dal seminato. Comunque, perché io sulla prima canzone ho pensato a un segno di solidarietà, no? Nel giro tondo. Per cui mi è venuto in mente il fatto della ragazza che è stata salvata dalla lapidazione. Ah sì, certo. Per cui la solidarietà la vedevo così estesa, così come un giro tondo nel mondo che tutti dovrebbero partecipare per questa battaglia umana. Giusto. Poi però, quando adesso mi avete messo, come si chiama? Rosalina di Concato, Rosalina, Montagne Verdi di Marcello. E Montagne Verdi, dico, qui senz'altro è un evento sportivo di qualche corsa in montagna, non so, lo vedo più come evento sportivo, l'impressione di distanza ancora? Non posso dire niente, Maria Teresa, giusto. Io ce l'ho lì, Ma senti, ho fatto perdere tempo. E la tua risposta qual è? Sempre la prima, perché non riesco. Ho capito, quindi tu rimani ancora, su quello. Più fuori, ecco. Ho capito. Maria Teresa, adesso ti saluto, poi chi lo sa, non posso dire niente. Buona giornata, grazie. Ciao, grazie. Ciao, pensavo fosse un ragionamento che l'avesse portata poi a dare una. Vincenzo da Cremona, buongiorno. Ciao, ciao, buongiorno. Vincenzo. Ciao, tu sei l'ultimo, credo, Sì, va bene. Io credo, buongiorno a tutti intanto, io credo che sia indirizzato tutto verso il giro della Padania, però non potendo dare questa risposta ho pensato dalla prima canzone che fa riferimento a imbarcazioni, yacht, forse la tassa sulle imbarcazioni, sugli yacht di cui si è parlato. La tassa sul lusso, in poche parole. Sul lusso, in poche parole, non potendo rispondere per un giro della Pensa Padania. Che c'è ancora la tassa sui telefonini, considerati ancora un lusso quando sono nati, ma mica l'hanno tolta, Grazie Vincenzo. Ciao. Ciao, ciao, scaduto il tempo e Giacomo da Ferrara si porta a casa 500 euro. La risposta giusta, infatti, era proprio il giro della Padania. Bravo Giacomo! Grazie, ciao. Ecco, così almeno vedi che il tuo naso alla fine ti ha portato soltanto buono. Buona domenica. Ciao, grazie. 500 euro per te da spendere su libreriarizzoli.it. Giro tondo intorno al mondo perché di giro si parla. Rosalina perché lei va in bicicletta, Montagne Verdi perché il giro della Padania è appunto ai verde come colore. Ivan Basso comunque quello che l'ha vinto, ve lo dico perché la notizia è di poco fa. Grazie a tutti, ci sentiamo domenica prossima, puntare alle 10 con il riposo del guerriero. Grazie all'assistenza e alla redazione di Giorgio De Luca, Carmelo Lauricella in regia e naturalmente a voi. A domenica prossima.